Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Sono le 8:20 minuti. Questa banda e questa musichetta del padrino, caro Alessandro, forse la dobbiamo spiegare ai nostri ascoltatori. Sì. Abbiamo sentito anche il giornale della radio, viene da Paternò, tra l'altro. Suonano male. Si sente proprio una certa gravità sulle spalle dei trombonisti, per così dire. Sì. È la saga di Santa Barbara. Perché oggi è Santa Barbara. Paternò la festeggiamo perché è la Santa Patrona. È la Santa Patrona degli artificieri, dei granatieri, degli artiglieri. Forse anche per questo che ci sono fermati facendo l'inchino di fronte alla casa di un mafioso. Perché con gli esplosivi e le pistole ha a che fare questa gente. Esatto. Ecco che cos'è il culto cattolico nel. Le mani sulle spalle di chi confonde la fede con la mafia. Dovevi andare lì, Oscar, ma è così. La questione del culto cattolico. Ma è così, continua in parte d'Italia, malgrado quello che dicono le gerarchie ecclesiastiche e moltissimi vescovi impegnati a impedire cose di questo genere, in altre parti d'Italia continuano ad avvenire. Succede dunque a Paternò, Italia, questa vicenda della processione con l'inchino al boss. Dov'è che era successo anche in altri paesi? Però in Campania e Calabria, ripeto, ci sono vescovi che lo hanno impedito fisicamente, cioè che si sono messi a guardare congregazione per congregazione, perché in tutte queste feste viene affidata a congregazione di fedeli, no? Al portare le statue, a vedere con grande attenzione chi le compone e per evitare che si prestino. Basterebbe vedere anche il percorso. Giustamente un ascoltatore dice: ma tanto si sa il percorso, certo. Sanno bene le case dove si passa, dove c'è, e basterebbe vietare o impedire che si passi da case dove poi si fermano e fanno. Di solito quando queste cose avvengono vuol dire che le autorità municipali, oltre a quelle ecclesiastiche, sanno e sono conniventi. A questo proposito, ovviamente, però scusa Oscar, perché giustamente un ascoltatore me l'ha detto prima, ma ce lo ribadisco, anche Santa Barbara protettrice dei vigili del fuoco, ma sempre perché col fuoco chiaro, ha a che fare. Esattamente, in questo caso però altro. ci inchiniamo ai vigili del fuoco. Assolutamente, ma no, ma anche agli attiglieri, a questi altri noi non ci inchiniamo, ai mafiosi non ci vogliamo inchinare. A proposito, che dicevi? No, a proposito di culto eccetera eccetera, oggi segnaliamo sul Messaggero questo articolo, visto che di Roma oggi ci occuperemo anche per tale. Però intanto, in vista del Giubileo, pare proprio che gli alberghi, soprattutto quelli gestiti da ecclesiastici, siano vuoti, ma vuoti al punto tale che annullata tutte le prenotazioni. E allora, a maggior ragione, diciamo noi, perché chi li gestisce non raccoglie l'appello del Papa a pagare l'IMU, visto che risulta che ancora delle ben 297 strutture ricettive gestite da religiosi a Roma il 62% non paga l'IMU, il 42% non paga la TASI, le figlie vecchia, di San Giuseppe perché non la versano i 576.000 euro? È una vecchia questione, devono... perché queste strutture dicono: ma noi non paghiamo per la parte dei figli relativa alle questioni religiose, mentre per le questioni commerciali paghiamo lì. Ma in mezzo a questo grigiore in realtà ci sono molte persone molte strutture che passano per strutture religiose e quindi esenti dall'IMU, ma in realtà sono delle strutture commerciali. No, cioè chi fa il furbo e cara domenicana del Santissimo Sacramento fuori gli 88.000 euro. Gli 88.000 euro, va bene. È un contenzioso che il Comune di Roma da anni porta avanti per cercare di recuperare soldi. Noi paghiamo per il Giubileo, detto dal Papa, loro paghino le tasse che devono. Oh, tra l'altro di Roma, come hai detto, parliamo oggi sicuramente, perché a Roma intanto ci sono le targhe alterne, vi siete ricordati, i cittadini di Roma? Oggi è pari e quindi targa pari. e le dispari a piedi. Dalle 7.30 si dovevano fermare le dispari. Ormai se avete una macchina dispari, fermatevi subito, frenate, accostate, abbandonate la macchina. E questo alle 7.30. Poi dalle 8.30 per 4 ore sciopero dei trasporti NATAC. Esatto, di un piccolo sindacato, di una piccola sigla sindacale. Sai come si chiama questa sigla? Cambiamenti. Cambiamenti. Vedi le modifiche alla comunicazione pubblica. Lo sciopero il venerdì, ma guarda un po' te, il venerdì di sciopero. Come se fosse un'eccezione lo sciopero. No, no, non lo so, faccio notare, ma sarà un giorno come gli altri della settimana. Per l'indizione di astensione dal lavoro pare di no, però. È uno dei giorni prediletti. Infatti, cambiamenti. E poi c'è anche l'altra casualità, pensa, perché c'è un lungo ponte che arriva, ma guarda la casualità. Sì, sì, il ponte è soprattutto per i milanesi, qua, perché lunedì, cari cittadini di tutta Italia, è Sant'Ambrogio, magari se non siete di Milano non sapete cosa vuol dire, ma è il patrono di Milano. E quindi lunedì Sant'Ambrogio, martedì l'8 c'è l'Immacolata, ale, mega ponte, venerdì, sabato, domenica, lunedì, martedì. Però intanto, cari romani, oggi dalle 8.30 sciopero dei trasporti. Sciopero. Però bisogna capire questa sigla quanto. Tra l'altro, noi ne parleremo anche con il garante, il presidente della commissione di garanzia sugli scioperi, Alessio. Perché tanto si è discusso del progetto di far proclamare lo sciopero solo a quei sindacati che hanno una forte rappresentanza. Che hanno una forte rappresentanza. E anche Del Rio l'ha detto più volte, io sono favorevole, vedremo però, con l'idea di chiedere un voto ai lavoratori prima di poterlo poi tenere, con una percentuale minima di voti espressi. No, perché per dire, questo sciopero di Roma di oggi, credo CGIL, CISL e UIL, i grandi sindacati, non aderiscono, no? Sì. Anzi, ripropongono anche loro il tema, quando vi svegliate a cambiare le regole per cui possiamo proclamarlo solo se abbiamo una rappresentanza elevata nella storia del trasporto pubblico, cioè la polemica storica è appunto tra sigle più piccole e confederali. Esatto, tra l'altro 800 24 00 24 è il numero se volete intervenire in diretta, se volete dirci la nostra. Ovviamente, Oscar, non abbiamo parlato, ma se vuoi parliamo anche di tutte le questioni internazionali. A me, quando c'è un Putin che dice la Turchia la pagherà cara e a lungo, io... Prima ho fatto questa battuta, comincerei a vedere le quotazioni del polonio sul mercato internazionale, non so se esiste. Che è uno strumento di regolazione dei rapporti internazionali dal punto di vista russo, insomma, lo usano ogni tanto per regolare. Insomma, come dire. Però insomma anche Erdogan, hai visto che anche in Italia adesso fioccano le denunce penali contro i figli di Erdogan per mazzette a Bologna, quindi insomma io devo dire che è una bella gara. Perché vedere questa difesa unilaterale da parte degli Stati Uniti e di Obama, da parte del paese leader della NATO, degli autocrati turchi contro il neoimperiale Putin, è una roba che io mi fermo a bondo campo e dico: mamma mia, io non riesco a tra l'altro l'America ha a che fare con questa nuova vicenda. Certo, forse non ne sapremo molto di più perché sono stati uccisi questi due attentatori, però con quello che gli hanno trovato in casa, con i legami che sono stati trovati, adesso non qualsiasi cosa chiaro. Dice uno qua viene subito bollato. No, certo, però voglio dire, abbiamo passato giorni e giorni a deprecare e anche a deridere i buchi della sicurezza franco-belga sul terrorismo. L'efficientissima America, siamo a giorno e mezzo da San Bernardino, non ci sa dire cosa è successo. Obama dice solo: non sappiamo. Obama era partito in quarta a giocarla tutta sulla politica interna per la campagna che lo divide dai repubblicani sulla sicurezza interna e le modalità di acquisto delle armi. Però la verità è che l'amministrazione americana non vuole dire agli americani che terrorismo ci attaccano a casa nostra. Questo è il punto. Soprattutto però mi viene anche da dire, certo, l'intelligence deve controllare, perché questa persona andava in Arabia Saudita, in Pakistan, pare avesse contatti però con lì è evidente islamici. Che c'è un filtro politico, perché per il presidente americano ammettere ci attaccano a casa dopo l'11 settembre vuol dire una cosa ben precisa. Certo che c'è da dire, dovremmo forse abituarci, come si era detto qualche giorno fa, a delle società dove ogni tanto purtroppo queste cose accadranno, perché non si può blindare il controllo assoluto. Tutto purtroppo orwelliano, neanche De Luca lo farà in campagna. ne parliamo, neanche De Luca. Non vuoi dirlo subito, no, di De Luca? No, perché quando tu mi parli di cose orwelliane col tono scandito mi viene in mente la mascella di De Luca. Lo so che vuoi dire questo, perché no. Sul Fatto Quotidiano c'è scritto che il figlio di De Luca è diventato consigliere politico del presidente della provincia di Salerno, perché, ma per meriti. Assolutamente. mica potrai pensare che siccome è figlio di conosciamo il curriculum di Roberto De Luca, fulgida della consulenza di sviluppo per il nuovo presidente, che anche lui non lo prende mica perché è fotografato da tutte le parti sempre a fianco di De Luca, mica sarà per quello, ma il presidente della provincia, ma non lo so, ma noi questo non lo sappiamo, noi non possiamo saperlo, non lo possiamo sapere, personaggetti. Va bene. Allora dicevamo, oggi a Roma potrebbe essere una giornata difficile, già lo sarà per le targhe alterne, ma c'è lo sciopero proclamato da questa sigla Cambiamenti, la cui leader presidente è Micaela Quintavalle, che è anche un'autista dell'ATAC. Buongiorno Quintavalle, benvenuta. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Insomma, in quanti siete intanto in questa sigla? Questo ce lo deve dire, eh? Allora, no, assolutamente, la verità è l'unico compromesso che accettiamo. In ATAC abbiamo quasi 300 iscritti, abbiamo cominciato a nazionalizzarci, quindi comunque 300. siamo molto piccoli. Tantissimi colleghi sono in finestra perché attendono il riconoscimento da parte dell'azienda, che dopo 2 anni ancora non è arrivato. Allora, i numeri veri ci saranno questa mattina con lo sciopero, appunto, perché chi farà lo sciopero comunque significa, cioè, sono le persone che poi credono realmente. Allora, Quintavalle, parli lei al microfono in questo momento, i romani l'ascoltano, può immaginare già cosa penseranno: porca miseria, l'ennesima giornata, già non passano i mezzi, oggi lo sciopero. Che dice ai romani che l'ascoltano? Allora, i romani ci conoscono da tantissimo, noi proprio stiamo cercando di fare un'alleanza con i cittadini, perché crediamo che l'unione lavoratori cittadini sia l'unica realtà possibile e fattibile per far cambiare le cose, perché la politica volge lo sguardo verso le problematiche. L'alleanza si fa facendo passare i pullman, però l'alleanza. Assolutamente sì, e purtroppo se i pullman non passano non è colpa dei conducenti, come hanno sempre voluto far credere, ma dei dirigenti. Ora, noi siamo sempre stati contrari allo sciopero con le fasce di garanzia, che punisce solo la cittadinanza, ma purtroppo per avere una rappresentatività in azienda è stato necessario farlo. Sì. Lo abbiamo fatto di venerdì, nostro malgrado, noi avevamo fatto una richiesta per il 30 di novembre, non ci è stato accordato, quindi volevamo farlo di lunedì proprio per non danneggiare ulteriormente i cittadini. Noi sabato e domenica lavoriamo, quindi non c'entra il weekend lungo. Lo abbiamo fatto di 4 ore perché purtroppo è stato. Sono un po' come un'escusazio non petita, questa, no? Assolutamente. No, è la verità. Però è la verità purtroppo, e dal momento che ad oggi blindano ogni tipo di forma di protesta alternativa, abbiamo dovuto, per poter scendere in campo, fare quello sciopero, che è lo sciopero tradizionale. Io spero che, se le cose andranno come devono, veramente i mezzi passeranno di più, ci sarà una rivoluzione interna non solo in ATAC ma in tutte le aziende di trasporto, si eviterà. Ma questo se c'è un rinnovo dell'azienda, lei dice, insomma, assolutamente, logicamente noi lotteremo. Sì, ma perché sciopero? Mi fai capire perché scioperate? Per questioni di soldi, economiche? Si allora, fa lo sciopero lo facciamo per l'accordo del 17 luglio, che va, cioè, ad inficiare anche sulla sicurezza della cittadinanza. Hanno firmato un accordo per cui tutto viene fatto sul gettone di presenza. Se un autoferrotrambiere è assente per guardare il proprio genitore, il proprio fratello che ha la 104, se prendiamo la parentale per stare con i nostri figli, se andiamo a donare il sangue, se abbiamo la febbre, noi perdiamo dei soldi. Per questo noi stiamo venendo a lavorare anche con 38 di febbre, anche con la preoccupazione dei nostri parenti, e di conseguenza i cittadini non hanno dei conducenti. Quindi sono di questo tipo qui. E poi ripeto, la lotta continua ed estenuante è contro la privatizzazione, perché qui vogliono convincere i cittadini che pubblico sia uguale inefficiente, quindi fanno tutte campagne denigratorie. Quintavalla, noi ci siamo sentiti più volte in altre trasmissioni, sono Giannino. Allora io le do atto che lei ha fatto, perché ne abbiamo parlato in trasmissione, lei ha fatto anche manifestazioni e ha preso iscritti su questo, attaccando anche i confederali, dicendo l'ATAC non sarebbe in ginocchio se in realtà i confederali non avessero ottenuto una linea spesso collusiva con la politica, che ha riempito di parenti, dei padri, di amici, eccetera eccetera. Però le dico, sulla faccenda delle presenze, il problema del divario degli orari fatti rispetto a quelli di altre aziende di trasporto, e lei lo sa che era un divario rilevante. Allora, ma io lo so, Sì, però voi ignorate delle cose, nel senso che, guardi, io studio medicina, le faccio un esempio molto chiaro, è come voler pagare un medico solo quando opera in sala operatoria e non se sta osservando delle analisi cliniche. Prima i nostri macchinisti, che erano pagati anche molto meno rispetto a Napoli, Milano e Torino, facevano 4 ore sul treno e 2 ore, cioè loro facevano comunque 6 ore, non è cambiato niente, semplicemente qualche volta il capo deposito gli diceva: guardate, avete fatto le vostre 4 ore, non ci servite, potete anche allontanarvi, ma nella maggior parte delle situazioni... No, però io non la voglio smentire, io le dico che con gli orari più bassi di in conduzione si finiva per dover pagare molti più straordinari. Però detto questo, invece, andiamo a un punto. Siccome i confederali sono d'accordo con quello che dice il governo, modifichiamo le regole per poterli proclamare gli scioperi, ed è ovvio che i confederali ce l'hanno con le sigle come le vostre. Lei che dice? Quando questa stretta arriverà, quale sarà la vostra reazione? Guardi, io dico che noi, perché adesso noi eravamo stati assolutamente incisivi con la protesta degli straordinari, per impedircelo si sono mossi in determinati modi. Io francamente noi non ci dormiamo la notte per trovare alternative forme di protesta. Non è lo sciopero con le fasce di garanzia il futuro, io preferirei uno sciopero l'anno e non 50, 60, 70, 80 inutili, ma H24. Oppure, se veramente continueranno a calpestare diritti, bisogni ed esigenze dei cittadini, io non escludo che possa accadere quello che è successo con Roma TPL, cioè noi stiamo in il blocco selvaggio di 8 giorni, nel senso che non dobbiamo per forza arrivare a queste conclusioni che poi però vanno non le esclude. Abbiamo mai escluse, ma non vorremmo mai arrivarci, proprio perché appunto stiamo dalla parte dei cittadini, stiamo dalla però parte lei dice, dei lavoratori. Se fanno una norma sulla rappresentanza per tagliarci l'erba sotto i piedi, i romani sappiano che può arrivare Roma. Anche un può arrivare anche io non la metterei sulla rappresentanza, io la metterei su un buon trasporto ed un buon servizio. Però, però la regola sulla rappresentanza con ogni probabilità ci sarà, da quello che insomma, sappiamo, scriviamo e annunciamo, perché e quello noi ci auguriamo, persino basta avere i numeri, ci auguriamo che gli autoferrotrambieri si rendano conto di che antidemocrazia, di che dittatura stiano facendo gli altri sindacati, per cui addirittura sembra che dal 2017 se tu ti vuoi cancellare dalla loro sigla non lo puoi fare, ma li devi pagare altri 14 mesi, e loro ti dicono è come l'abbonamento a Sky o a Wind, quindi proprio rasentiamo il ridicolo e sconfiniamo nell'anomalo. Quindi io spero nell'intelligenza degli autoferrotrambieri. Allora, se intanto... noi dovessimo avere 2.000-3.000 iscritti, il problema non si porrebbe. Intanto facciamo così, la ringraziamo Micaela Quintavalle, ricordiamo presidente del sindacato Cambiamenti. Tra l'altro, tra poco la invito ad ascoltare, lei come tutti gli ascoltatori, avremo dopo la pubblicità Roberto Alesse, cioè il presidente della commissione di garanzia sugli scioperi, no? Quindi torniamo e rimaniamo punto, su queste regole nuove. Sulle regole nuove. Pochi minuti di pubblicità e siamo qui. State ascoltando un programma offerto da San Martino di Castrozza, Passorolle. Spettacolo e avventura tra le Dolomiti. Siamo qui, caro Oscar, sono le 8:40 minuti. Allora. Cari romani, però devo dirti, Alessandro, noi abbiamo degli ascoltatori, ti sei coltivato degli ascoltatori fantastici, perché qui è quel ascoltatore di Roma che ieri ci ha regalato quella battuta. La battuta, quella sentila. Saluto dal più grande social network del mondo, grande raccordo anuale. Ecco, devo dire, il più grande mi hanno scritto fino a stamattina dovunque gli ascoltatori ridendo. Grazie a quell'ascoltatore, bisogna dire, a volte avete delle trovate fantastiche. Allora, sentiamo Alberto da Milano, che lì da un po' come ascoltatore ci voleva dire qualcosa. Alberto, buongiorno. Buongiorno Milan, buongiorno Giannino. Buongiorno. Volevo testimoniare un episodio di moltissimi anni fa, quando stavo a Boston per motivi di lavoro, e al North End, il quartiere italiano della città, ho assistito a una processione. Sì. C'era il parroco con i chierichetti davanti, poi c'era un signore con un borsalino di cuoio e 4 guardaspalle che circondavano la cassa che portava la Madonna. Da questa Madonna pendevano dei nastri azzurri e i fedeli sui marciapiedi prendevano delle banconote e le appuntavano appuntavano sui nastri. Sì, esatto. Vecchia tradizione. Uscivano anche i commercianti, certo, e il commerciante veniva guardato bene da questi guardaspalle, e mentre il fedele metteva un dollaro, il commerciante come minimo una banconota da 20. Sì. E quindi era... E le posso garantire che i guardaspalle controllavano che il commerciante non ne mettesse meno di 20 e quanto ne mettesse. Funzionava un po' così. Certo. Esatto, quindi io ho visto... L'ha vista con i suoi occhi, una sorta di inchino a Boston. Ha visto in un quartiere italiano. Però insomma, stiamo parlando di qualche diversi decenni fa. Stiamo parlando del 90 più o meno. Perché lei ha visto l'estrema sopravvivenza della continuità di una tradizione che era in diretta continuità con come funzionava nel sud delle cosche. Guardi che insomma adesso a New York chiunque conosce com'è cambiata, praticamente gli italiani non ci sono quasi più a Canal Street. Però a Canal Street tanto tempo fa avveniva esattamente quello che diceva lei. Ma il problema è che avviene ancora oggi nell'Italia di oggi. È avvenuto ieri a Paternò. Comunque, dopo aver avuto Micaela Quintavalle, allora, presidente del sindacato Cambiamenti, noi salutiamo il presidente della commissione garanzia sugli scioperi, Roberto Alesse. Buongiorno presidente, grazie di essere con noi. Buongiorno a voi, eccoci. Allora, perché dobbiamo parlare di scioperi. Intanto questo sciopero di Roma è tutto autorizzato, sì, perché... Sì, certo, tutto di oggi è uno sciopero della durata di 4 ore che riguarda il personale dipendente dell'azienda ATAC. Ma posso chiedere al presidente, siccome la ricostruzione che abbiamo avuto da chi guida il sindacato che l'ha proclamato è: ma noi lo volevamo fare un altro giorno, noi lo volevamo fare in un altro modo, però alla fine ci hanno detto di no e quindi per questo è venerdì. Ma se così numerosi venerdì si blocca Roma il trasporto, è perché le regole non consentono altro, come dicono i sindacalisti, o perché sono loro che scelgono il venerdì? Ma insomma, adesso non dobbiamo esagerare, non è che in Italia è vietato scioperare, lo sciopero è un diritto costituzionale. L'autorità di garanzia vigila su questo settore in modo molto attento. Nella fattispecie, questo sindacato di oggi che ha scioperato i Cambiamenti, che ha una percentuale di iscritti all'interno del personale dipendente dell'ATAC pari all'1,7% del personale complessivamente iscritto al sindacato. Quindi non è particolarmente significativo. Poi valuteremo a posteriori se il danno, diciamo, appunto prodotto all'utenza sarà maggiore, rilevante o no, ma ovviamente scioperare poi insomma è illecito. No, presidente, è chiaro che lo sciopero quando viene fatto ha l'obiettivo anche di procurare un minimo di danno all'utenza. Questa percentuale, questa percentuale che lei ci ha dato, 1,7, ci porta proprio alla questione della rappresentanza. Alla vexata questa, della rappresentanza. Che non si riesce a... Lei come la vede? Io vedo che c'è una frammentazione sindacale eccessiva e che ovviamente deve essere ridotto ad unità. Anche perché diciamoci la verità, i sindacati piccoli e Cobas non fanno mistero del fatto che proclamano questi scioperi proprio contro quelli maggiori per dire venite da noi. Per molti diventa un mestiere fare il sindacalista, insomma, e questo non è consentito. Qui bisogna fare un'operazione molto intelligente. Ma lei, se dovesse indicare negli altri modelli degli altri paesi che hanno, ripeto, in 17 paesi per esempio europei, non solo ci sono vincoli sulla rappresentanza, ma addirittura ci sono procedure di voto, sia pure diverse. Ma non può accadere che i sindacati con pochi iscritti riescano a... Ma se lei dovesse indicare al legislatore una soglia minima... Beh, il modello tedesco, per esempio, che prevede un referendum da indire prima della proclamazione per vedere quanti lavoratori anche iscritti ad altri sindacati rispetto a quello che proclama aderiscono in modo in realtà formale, perché ripeto è una tecnica poi che effettivamente produce danno, perché ripeto anche il sindacato con pochi iscritti proclama lo sciopero e poi successivamente lavoratori di altri sindacati magari più grandi aderiscono a posteriori. Questo insomma è... Non va bene. Però presidente, che succederà invece con il Giubileo? Terrà questo accordo per cui nei trasporti non ci saranno scioperi? L'autorità per tanto tempo ha detto che era necessario sedersi intorno a un tavolo per firmare un patto di tregua sindacale. È stato risposto picche in sostanza da parte del governo dei sindacati, non sono venuti da noi come invece avvenne in passato in occasione del Giubileo del 2000 a redigere un protocollo d'intesa. Lo hanno fatto però, e questo è un fatto positivo, in sede di Ministero delle Infrastrutture limitatamente al settore dei trasporti, e questo è un fatto positivo. L'autorità cosa ha fatto? proprio nella seduta di lunedì scorso, non solo ha dichiarato idoneo quell'accordo intervenuto tra le principali sigle sindacali e il Ministero delle Infrastrutture, ma lo ha esteso quell'accordo a tutti gli altri soggetti sindacali non firmatari, e in più lo ha esteso anche a tutti gli altri settori dei servizi pubblici essenziali. Ma questo vuol dire praticamente a quelle date sensibili. No, certo, ma cosa vorrà dire praticamente? Che non ci saranno dei sindacatini che bloccheranno, che sarà, o che questo sarà molto difficile, sarà molto difficile scioperare durante quelle date sensibili attraverso le quali si snoderanno i principali eventi del giubileo. Sono una trentina, il giubileo durerà un anno, come voi sapete. Alessio, ma come mai, siccome è evidente che c'è una differenza dell'estensione, e mi sembra anche della volontà manifestata di rispettare davvero accordi così, c'è una differenza secondo me tra quanto è avvenuto molto tempo prima dell'Expo a Milano e quanto arriva all'ultimo secondo invece a Roma, e lei ha anche sottolineato il diverso tipo di coinvolgimento che avete avuto. Come mai secondo lei c'è un modello insomma, Roma, lo dica il prefetto Tronca, insomma, che da Milano è stato catapultato, diciamo, in questa realtà molto complessa di quella romana. Qui le cose funzionano in modo diametralmente opposto rispetto a quello che accade a Milano, dove il sistema, vogliamo dirlo, politico istituzionale forse regge di più rispetto a quello romano, che è figlio poi delle ultime vicende anche capitoline. Qui la situazione è molto più complicata. E certo, poi tutta questa materia di scioperi risente proprio, lo vogliamo dire chiaramente, del collasso del sistema della finanza pubblica, soprattutto a livello locale. E quindi non c'è qui un servizio pubblico essenziale che gode di ottima salute. L'ATAC è da 10 anni, come certifica ogni anno Mediobanca, ma pensi quello che sta accadendo anche a Livorno con riferimento alla raccolta smaltimento? Infatti noi abbiamo avuto il sindaco che ha fatto questa appello. Ecco, in che senso? State intervenendo come? Stiamo intervenendo, abbiamo aperto un fascicolo istruttorio per accertare di chi sono le responsabilità, ma è chiaro che qui noi assistiamo a tutta una serie di ex municipalizzate, o meglio di società pubblico-private che gestiscono questi servizi essenziali, appunto, ripeto, da regione ambientale, raccolta, smaltimento di rifiuti e trasporti, che sono proprio non in uno stato di prefallimento, sono post-fallimento. La politica ha fatto finto per anni di non vederlo. L'Italia per certi aspetti, con riferimento a questa materia, è fallita da un punto di vista tecnico, lo vogliamo dire. Ma voi lo sapete che ci sono delle gare pubbliche che vengono bandite dalle stazioni appaltanti pubbliche senza adeguata copertura finanziaria, sono i soldi. Troppo lo sappiamo, ma il problema è che la politica spesso interpreta il verbo relativo a una gara, cioè bandire una gara, solo al participio passato, cioè alla politica piacciono i banditi, che è una cosa diversa. Esattamente, concordo pienamente, e la politica dimostra di non essere all'altezza della situazione. E poi i risultati sono per i cittadini, le vittime sacrificate di questo sfascio in realtà del sistema. Allora, noi Presidente la ringraziamo. E mi lasci dire che uno Stato diciamo di diritto, che non riesca più a trovare le risorse pubbliche e per coprire i servizi e quindi garantire i diritti costituzionali ai cittadini, ma che Stato è? Ma come ci siamo ridotti? Oggi sento da lei un tono come che mi viene ma come è possibile che uno Stato in realtà neghi se stesso, la propria esistenza? Ma come è possibile? Presidente, a questo livello. Noi la ringraziamo molto, insomma, staremo a vedere questo sciopero come va. Roberto Alessa, ricordiamo, è presidente della Commissione di Garanzia. Ammettono che lo Stato rotola nella polvere, perché quando lo Stato è ladro nega se stesso. Sentiamo Andrea da Roma. Andrea, che targa ha? Pari, dispari, mezzi pubblici? Andrea. Macchina GPL. GPL, quindi giustamente. Sono graziato, però grazie. Mia moglie sta ferma a casa con la targa dispari, quindi quello abbiamo fatto. Prenda l'ATAC, no? Allora guardi, io tra l'altro lavoro vicino a dove ci sono i depositi della TPL, a questi ragazzi gli abbiamo pure regalato delle, diciamo, generi di conforto, perché ci sono questi qui che non vengono pagati da mesi, e poi c'è gente che viene pagata bene e sta in ufficio a non far nulla. Quando lei dice questi qui, chi? TPL, la società di trasporto pubblico locale. L'ATAC è molto più protetta come azienda, molto più protetta. E qui nell'ATAC è vero che ci sono persone con la 104 e che hanno grossi problemi, ma c'è pure tantissimi assenteisti, mi creda, perché delle persone che lavorano con me hanno amici che stanno nell'ATAC e praticamente non fanno nulla, sono tasso di assenteismo altissimo. Ricordiamo, diamo il numero a chi ci ascolta. Quando l'amministratore delegato, nel frattempo rimandato a casa anche lui, Danilo Borogi, arrivò in azienda, e sto parlando di un anno e mezzo fa, un anno e otto mesi fa, trovò un tasso di assenteismo che arrivava quotidianamente al 18-19%, tanto da fargli dire un anno dopo di considerare un grande successo e sceso al 14-15%. Stiamo parlando di un assenteismo comparabile invece a quelli in aziende di trasporto privato, dove il tasso quotidiano è tra il 4 e il 5%, per dare l'idea quello privato. Vogliamo chiudere con gli Oscar, la ripristiniamo, che se no è un po' di tempo. Io voglio dare un Oscar molto particolare, più che un Oscar è un abbraccio il mio, Allora io voglio dare un abbraccio fortissimo a un amico che è Beppino Englaro, perché ho saputo 2 giorni fa che è morta la moglie, che poi è la mamma di Eluana Englaro. Saturna è morta dopo, si è spenta già il giorno dell'incidente di Eluana, poi un tumore, una lunga malattia. Insomma, io posso un chiederti... grandissimo abbraccio. Io mi associo Beppino e spero Englaro. Davvero che moltissimi ascoltatori si associano, perché stiamo parlando di persone che oltretutto hanno anche avuto tantissimo. Oltre alla sofferenza, il merito di accollarsi con grande misura anche una grande testimonianza civile. Posso... Io sposo anch'io al 110% queste tue parole. Il dolore può servire a tutti noi, se però facciamo dei passi avanti. Come limito a dire questo senza voler... Il mio Oscar invece ci voglio tornare sull'argomento e al... il figlio di De Luca. E al figlio di De Luca. Perché? No, perdonate, cari ascoltatori. Roberto De Luca. Ecco. Caro. Vi dillo con la voce giusta. Robertino. Ecco. Allora, caro Roberto De Luca, io apprezzo chi in politica è coraggioso. Il tuo coraggio è quello di dire: penseranno tutti che sono qua perché sono figlio di papà, ma sapete che vi dico? Io ci vado lo stesso. Ecco. Allora, un Oscar alla grande faccia tosta. Che c'hai di chi si contro Robertino? Niente, per questo lo premio. Però, cari ascoltatori, ragioniamo su chi dice di essere le svolte, eccetera, eccetera. E poi tengo famiglia. Bob De Luca. Sì. Va bene, dai, ci troviamo lunedì, caro Oscar. Oggi pomeriggio oggi pomeriggio per i milanesi, ma per tutti c'è il cardinale di Milano, quindi il cardinale scuola, insomma. Grazie, a oggi pomeriggio con Oscar e poi lunedì. Diciamolo a voce alta, vogliamo Oscar Giannino, sindaco di Roma e vice sindaco a